Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno dottoressa, pronto? Sì, sì. Siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, benvenuta. Dottoressa, grazie. Un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage è punita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. TFR in busta paga, sì o no? È una domanda che ci stiamo e vi stiamo facendo da qualche mese. I tempi si sono un po' dilatati, forse da un lato è meglio così, perché questo può averci dato maggior tempo per decidere cosa fare, per decidere se preferiamo avere uno stipendio un po' più alto a fine mese, andando però ad erodere la nostra liquidazione, ma anche, come sapete, bloccando il versamento del TFR ai fondi pensione. Quindi oggi, nella prima parte di Cuore e Denari, torniamo a spiegarvi, visto che ormai abbiamo tutto il provvedimento pubblicato in Gazzetta dal 19 marzo, come dovrebbe e potrebbe funzionare quella che viene chiamata la monetizzazione del TFR. Ci chiederemo anche se siamo pronti, se siano pronte le aziende e chi le supporta. Naturalmente risponderemo anche alle vostre domande, quindi potete iniziare a prenotarle al nostro numero verde se avete dei dubbi o delle incertezze. Questo è il momento per tirar fuori tutto, visto che c'è ancora un po' di tempo prima che il sistema diventi definitivo. Quindi chiamate l'800 24 00 24. Nicoletta. A proposito, quindi non fatevi tirare fuori le parole di bocca, ecco, verrebbe da, ecco, dire. Questo, esatto, sarebbe l'assist che tu avresti potuto darmi per introdurre il tema della seconda parte della trasmissione. Parliamo di bocca, bocca sana in corpore sano. La salute orale e lo stato di salute generale si influenzano a vicenda, ne abbiamo parlato tante volte, e le infiammazioni in bocca possono avere effetti su tutto l'organismo e causare anche problemi di salute serie. Per questo, oltre ad un'accurata generale, è importante sottoporsi a controlli regolari, non solo per verificare l'eventuale presenza di carie, ma anche per valutare lo stato di salute della lingua, delle gengive, della superficie interna delle guance, delle labbra, della parete inferiore della bocca, quella sotto la lingua, e del palato duro. Insomma, oltre ai denti c'è di più, c'è un microcosmo delicato, importantissimo, che può infiammarsi e diventare sedi di lesioni che non vanno mai trascurate. Ne parleremo tra poco. Nel frattempo, se avete tempo, se avete voglia, andate davanti allo specchio, aprite la bocca, osservate il colore delle mucose e con la lingua ispezionate la superficie interna delle guance, del labbro superiore e inferiore. Chiamateci se notate lesioni o avvertite delle piccole protuberanze, se avete afte ricorrenti e se la bocca vi fa male. 800 24 00 24, a tra poco. Vince, io mi uccido. No, non voglio pietà, no, non voglio compassione. Io mi uccido. Meglio un giorno da leone, Vince. Meglio 100 giorni da pecora. Meglio un giorno da leone, no? Signore, non io, meglio un saccio da pecora e da leone. Fai 50 giorni da osso a chiodo, me ne stai in mezzo, non fai la figura in mezzo della pecora e nemmeno leone, però campano io. Allora, meglio uno stipendio da leone o forse da orsacchiotto, come diceva Massimo Troisi, con una liquidazione più scarsa, o preferite una busta paga da pecora per mettere da parte il più possibile per quando il vostro rapporto di lavoro si concluderà, insomma, da brave formichine. Lasciamo da parte tutte queste metafore animaliste ed entriamo invece nel vivo del tema di denari di oggi. Parliamo della possibilità per i lavoratori di richiedere la monetizzazione valutazione mensile del trattamento di fine rapporto che entra ormai nel vivo. Quindi la QIR, la quota integrativa della retribuzione prevista dalla legge di stabilità, la legge 190 dello scorso anno, è praticamente pronta. Ha dovuto attendere l'emanazione di un decreto di attuazione, il numero 29 del 2015. Stiamo dando tutti questi numeri perché, Nicoletta, molto spesso lo sai, gli ascoltatori ci chiedono i riferimenti di legge precisi, quindi stamattina li abbiamo tutti. E il decreto di attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 65 del 19 marzo scorso, per cui è tempo di riepilogare la situazione a beneficio degli ascoltatori che vorranno approfittarne, visto che ci sono diverse date da tenere a mente. 800 24 00 24, il numero verde per tutte le vostre domande sull'argomento, che è di stretta attualità, visto che, se non abbiamo capito male, già da marzo era possibile cominciare ad inoltrare la richiesta all'azienda. L'erogazione, le prime liquidazioni dovrebbero, io continuo a parlare al condizionale, avvenire già da aprile nelle aziende più grandi, da luglio in quelle più piccole. Ricordate che la vostra scelta sarà irrevocabile e riceverete questa liquidità fino a giugno 2018. Alessandro Rotaporte, nostro consulente del lavoro, esperto del Sole 24 Ore, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Molto indaffarato in questo periodo, immagino, con le aziende che segue, naturalmente, immagino, Rotaporte, proprio perché state cercando anche voi di capire bene come muovervi in questo slalom legislativo, no? Sì, diciamo che la QIR alla fine, con tutto il pacchetto del Jobs Act, passa quasi in secondo piano, però a parte la battuta è comunque una disposizione che purtroppo, da semplice come doveva essere, un po' si è complicata per via di un po' di ritardo nell'attuazione, certo, amministrativa dei provvedimenti, e poi tutta la gestione che l'INPS purtroppo non ha ancora ad oggi chiarito, e questo incide un pochettino anche proprio sulle tempistiche che lei accennava, certo, prima. Ci aggiungo anche il terzo problema, che avremo modo di argomentare nel corso della trasmissione, che riguarda le piccole aziende che non hanno la liquidità in cassa per poter soddisfare i lavoratori, certo, se facessero richiesta, devono rivolgersi al sistema bancario per ottenere dei finanziamenti, e questa è anche una partita problematica barra anche un po' polemica, ma ci arriveremo. Allora, andiamo con ordine. Rotaporte, la legge di stabilità prevede che i lavoratori dipendenti possano chiedere al datore di lavoro il pagamento della QIR in relazione ai periodi di paga che decorrono dal 1 marzo 2015 fino al 30 giugno 2018, quindi c'è un arco temporale ben definito. Le aziende sono pronte con la modulistica da far compilare ai lavoratori? Le risulta, Rotaporte, che qualcuno abbia già compilato la richiesta, visto che abbiamo avuto la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta solo il 19 marzo, che peraltro mi pare dovesse proprio anche comprendere un facsimile della modulistica, no? Sì, sì, corretto. Allegato a quel provvedimento del 19 marzo c'è proprio un modello, che è quello che deve utilizzare il lavoratore interessato ad ottenere la liquidazione della QIR. Deve appunto consegnarlo al datore di lavoro, il quale glielo deve vistare, quindi glielo deve controfirmare. Quindi dal punto di vista della modulistica le aziende sono pronte, perché è già passato un po' di tempo, quindi la modulistica è disponibile. Al momento le domande, almeno anche per la situazione che ho avuto modo di vedere io in questi giorni, sono molto basse. Ero in un'azienda qualche giorno fa da un migliaio di dipendenti e neanche una decina di lavoratori aveva fatto la richiesta, quindi per ora le domande, i numeri non sono numeri elevati, però diciamo che sono già disponibili. Il problema è capire proprio la decorrenza, perché siccome questo decreto, che è stato emanato appunto il 19 marzo per via di adesso non stiamo entrare in dettagli, ma comunque per via della vacatio legis è operativo dal 3 aprile, quindi c'è il dilemma se saranno ritenute valide solo le domande, esatto, che arriveranno dal 3 aprile in avanti, esatto, oppure no, quindi probabilmente saranno ritenute anche quelle presentate in precedenza, quindi dando modo di poter percepire già quindi da aprile, quindi con il pagamento del TFR mensile in aprile, quella dovrebbe essere la decorrenza, però fin tanto che non ci sono chiarimenti ufficiali è difficile dare una risposta che sia certa. Quindi in questo senso, teoricamente lei parlava prima del caso che ha seguito direttamente di un'azienda con qualche migliaio di dipendenti, qualcuno ha fatto la richiesta per avere il TFR in busta paga, aspettiamo adesso le disposizioni dell'INPS o l'azienda potrà erogare direttamente a questi lavoratori già ad aprile, Rota Porta? No, dobbiamo aspettare le disposizioni dell'INPS perché ad esempio, a maggior ragione, soprattutto nel caso delle aziende con più di 50 dipendenti, per i lavoratori che non hanno destinato il proprio TFR a un fondo di previdenza complementare, il versamento delle quote va fatto all'INPS, al fondo di tesoreria dell'INPS, e quindi se l'INPS non dà un assenso in questa direzione, il fatto, cioè l'azienda non può arbitrariamente girare la quota al dipendente senza esserne sicura di poterlo fare, perché sennò sarebbe un'evasione, quindi un mancato versamento di quella quota al fondo di tesoreria, che di fatto quindi sarebbe considerata alla stregua di un'evasione contributiva, quindi deve esserci il chiarimento dell'INPS in questo senso. Come sempre abbiamo questo ministero trasparente della complicazione degli affari semplici, Nicoletta, che come dire ci gravita attorno, no? Allora, adesso andremo anche alle altre domande che avevamo preparato per Alessandro Rotaporta, però darei la precedenza, certo, ai nostri ascoltatori che stanno già chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24, molti messaggi al 349 238 6666, li leggeremo tra poco, quindi continuate a scriverci. Stefano, buongiorno, ci chiama da Ravenna. Sì, esatto. Vedi che sono un po' maga, l'ho beccata. No, sta scherzando. Vada, Stefano. Sì, vabbè, ok. Allora, no, la mia domanda è un po' particolare. Volevo sapere se uno optasse per il TFR in busta paga e se questo importo fa reddito per il futuro importo dell'assegno pensionistico di tipo retributivo. Grazie a Stefano. Allora, partiamo proprio dalla tassazione della liquidità in busta paga che deriva dalla QIR, dal TFR, Rotaporta. Effettivamente è un po' meno, una fiscalità un po' meno incentivante rispetto a quella applicata al TFR se fosse trasferito al fondo pensione. Contribuisce, sì, appunto alla formazione di tutto il reddito complessivo. Sì, esatto, perché comunque entra praticamente nell'imponibile, quindi è soggetto non alla tassazione separata, che normalmente è più vantaggiosa, a cui è tassato la percezione standard del TFR, ma è assoggettato alle aliquote IRPEF ordinarie, quindi anche alle addizionali regionali e comunali. La domanda dell'ascoltatore era leggermente diversa, nel senso che lui chiedeva se questa quota diventa una retribuzione utile ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile. La risposta è no, perché comunque la QIR non è assoggettata a contribuzione, quindi non ha una finalità contributiva, per cui non dà non porta una maggiorazione di accredito ai fini pensionistici. Chiarissimo. Quello no. Però rispondiamo anche a Paolo da Salerno, allora al 349 238 6666, rimanendo sulla prima parte della domanda, Rotaporta, sulla questione della fiscalità, la differenza di tassazione fra le due scelte, proprio per capire eventualmente come fare una valutazione di convenienza. Ma allora non c'è una risposta generalizzata, perché dipende dalla situazione reddituale del lavoratore, cioè addirittura ci possono essere dei casi, pensiamo a quel lavoratore che ha delle detrazioni di imposte elevate perché magari ha dei carichi familiari e quindi avendo delle detrazioni elevate magari l'importo delle detrazioni supera l'imposta che lui dovrebbe pagare. In quei casi lì ad esempio potrebbe essere più conveniente richiedere la QIR rispetto alla normale tassazione del TFR, perché comunque la normale tassazione del TFR sarebbe comunque una tassazione positiva, perché comunque ci sarebbe l'applicazione dell'aliquota della tassazione separata, mentre nell'altro caso si andrebbe quindi a godere di quelle detrazioni di cui invece normalmente non si godrebbe e quindi non si pagherebbe addirittura imposta. Cioè, quindi è difficile generalizzare, ma comunque il discorso, come dicevamo prima, è che nella maggior parte dei casi la tassazione ordinaria è più svantaggiosa e questo esatto. ovviamente è un effetto progressivo all'aumentare del reddito del lavoratore rispetto alla tassazione certo. Separata. Fatte queste premesse, Rataporta, secondo lei, sulla base della sua esperienza, sulla base anche della tipologia delle aziende che segue come consulente del lavoro, sulla base di quello che legge, della sua percezione personale, secondo lei quale tipo di lavoratore farà richiesta del TFR in busta paga? Ma io penso che comunque sia una misura che forse poi ha anche proprio l'intento del governo in questo senso, che sarà sfruttata da chi ha difficoltà magari proprio di ottenere una liquidità maggiore e quindi solo in quei casi lì, perché diversamente, a parte situazioni specifiche a cui accennavo prima, chi versa un fondo complementare va ad erodersi poi quello che sarà poi l'assegno integrativo. Esatto, cioè quindi si snatura un po' il valore del TFR. E su questo abbiamo già fatto peraltro molte puntate. E poi c'è appunto anche l'incidenza, ed è un'incidenza penalizzante, del fatto che entra nell'imponibile fiscale ordinario, che è un'incidenza ad esempio sulle prestazioni legate all'ISEE o sugli assegni familiari, quelli che il datore di lavoro certo. Anticipa per conto dell'INPS, perché quindi andando ad aumentare il reddito penalizza queste prestazioni. Quindi diciamo che il suggerimento che possiamo dare anche ai nostri ascoltatori / lavoratori che stanno accarezzando adesso l'idea di fare richiesta all'azienda per avere questa liquidità in busta paga, magari prima di affrettarsi a compilare la modulistica, andare o da un consulente del lavoro oppure presso l'amministrazione della propria azienda o in un centro di assistenza fiscale per farsi fare un pochino una simulazione. Da un mese all'altro magari la situazione non ci cambia radicalmente, valutiamo se effettivamente tutto questo nuovo peso fiscale ci conviene sopportarlo, no? E se è come dire, se vale la pena sostenerlo per ottenere in cambio un po' di liquidità in busta paga che magari non ci cambia la vita. Non so, qual è un suggerimento di buon senso che possiamo dare, Rataporta? Sicuramente le osservazioni che lei faceva sono validissime. Teniamo anche conto che il lavoratore questa opzione scade a giugno 2018, ma nulla vieta di fare la domanda anche più avanti, quindi cioè, la domanda non è che va fatta obbligatoriamente adesso, può essere fatta all'interno di tutto questo arco temporale, quindi il lavoratore potrebbe anche decidere magari quest'anno di continuare ad far accantonare il proprio TFR e magari nel 2016 o nel 2017 di esercitare l'opzione, cioè l'opzione esercitabile per tutta la durata di questa disposizione, tenendo ferma la scadenza certo. di giugno 2018, quindi si può anche fare in corsa. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, per intervenire in diretta. In alternativa potete scriverci al 349 238 6666. Vedo che ti stuzzica, secondo me mi stuzzica Eloisa. Immaginavo, perché è vero, perché sì. ne avevamo parlato, ma è ci vero. Saremmo tornate su questo aspetto. Ci scrive Eloisa se, dato che le sarebbe utile in questo momento un po' di liquidità, questo anticipo, ci chiede se la scelta è irreversibile. È proprio un punto molto chiaro questo della norma, Eloisa. No, vero, Rataporta, nel momento no, in cui la scelta, si prende. La scelta non è reversibile e magari ricordiamolo, forse non l'abbiamo ancora detto, che non è attivo. Intanto il lavoratore deve avere 6 mesi di esatto. anzianità presso l'azienda e non è attivabile dai lavoratori domestici e dai agricoli. Lavoratori dipendenti del settore agricolo, esatto. Quindi Eloisa, ci pensi su un attimo, dopodiché nel momento in cui prenderà questa decisione sappia che questa liquidità in busta paga le arriverà fino al 30 giugno del 2018. Ma per chi per esempio Rataporta prendesse questa decisione a settembre, no? Poi faremo la differenza fra aziende grandi e aziende piccole, perché qui c'è anche un punto importante da toccare, perché le grandi potranno liquidare in fretta, le piccole hanno un po' più di difficoltà. Ma ammettendo appunto che Eloisa, come altri lavoratori, prenderanno questa decisione più avanti, prenderanno la decisione di prendersi questo TFR appunto in busta paga, prenderanno anche le quote retroattive, per esempio da marzo in avanti, oppure sarà la liquidità maturata da quel momento in poi? No, da quel momento in poi, perché comunque le quote precedenti poi saranno state accantonate o versate ai fondi, nel caso della scelta della previdenza complementare, saranno già state versate. Certo, diciamo quindi, che l'unico mese un po' ballerino è questo tra marzo e aprile, che non si capisce bene. Bisogna capire bene quale sarà il destino di marzo, però per il resto poi decorrerà dal momento in cui, cioè dal mese successivo all'istanza per le aziende con più di 50 dipendenti, invece per chi accederà, quindi nella normalità dei casi, invece per chi accederà al sistema di finanziamento, allora parte dal terzo mese successivo, perché lì c'è tutto quel sistema bancario che magari poi lo spieghiamo. Esattamente. Cuore e denari. Supercalifragilisticexpialidocious, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte. Supercalifragilisticexpialidocious, perché abbiamo iniziato con questa parola che io ancora non riesco a dire, non in inciampo? Perché sono cosa vuoi faccio. Fare? Prova. Supercalifragilisticexpialidocious. E prova a dire otorinolaringoiatria. Otorinolaringoiatria. Perfetto, è promossa. Ecco, pensa che prevenire è più facile che dire otorinolaringoiatria. E questo è il motto della prima giornata della prevenzione dell'associazione Otolaringologi Ospedalieri, che è patrocinata dal Ministero della Salute, che è dedicata proprio alla diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. Si tratta di patologie con un'incidenza piuttosto alta in Italia, ma che possono essere prevenute come diminuendo i fattori di rischio, che sono il fumo, l'abuso di alcol, la scarsa igiene orale, le lesioni causate da protesi dentarie, l'infezione da papilloma virus legata a rapporti sessuali orali non protetti e, non meno importante, anche una dieta povera di frutta e verdura. Come sempre, la diagnosi precoce può fare la differenza, consentendo di vivere meglio e soprattutto di evitare trattamenti demolitivi con conseguenze anche invalidanti. Ne parliamo tra poco all'800 24 00 24. Ce l'hai la musichetta, per favore? Ma che musica? No, ma che soldi? Ma chi ce li ha i soldi? Guardi che invece i lavoratori della busta paga si vedranno scritto TFR, che vuol dire cosa? Troppo forte Renzi. No, ma basta i sensi, guardi che... Ma guarda, non so se le aziende in questo periodo stiano esattamente interpretando nello stesso modo la questione del TFR in busta paga, qualche dubbio. In realtà questa idea del TFR in busta paga mette qualche azienda in difficoltà, no? Alessandro Rottaporte, il nostro consulente del lavoro che ci aiuta questa mattina a orientarci nelle novità che riguardano questo pacchetto di liquidità in busta paga. Abbiamo ormai quasi tutti i riferimenti legislativi, ci mancano solo le disposizioni dell'INPS, e abbiamo detto poco peraltro. E quindi porte aperte alle vostre domande all'800 24 00 24. Spieghiamo bene la questione, Rottaporte, poi abbiamo altre domande da parte degli ascoltatori. Ce n'è anche una curiosità di Nicoletta che mi suggeriva adesso a microfoni spenti, ma la differenza fra aziende grandi e quelle che invece hanno un numero inferiore di 50 dipendenti, perché queste è abbastanza probabile che non abbiano liquidità in cassa, ammettendo che molti lavoratori non facciano questa richiesta. Se non ho capito male, è stato siglato un protocollo d'intesa presso i ministeri competenti con l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, affinché le banche mettano a disposizione delle risorse da dare alle aziende e ai lavoratori. Quindi le aziende dovranno indebitarsi per garantire il TFR in busta paga ai lavoratori che ne faranno richiesta? Sostanzialmente sì, stiamo parlando delle aziende che hanno le dipendenze meno di 50 addetti e che non sono quindi tenute a versare il TFR al fondo di tesoreria dell'INPS, perché quelle che già lo versano di fatto non sono penalizzate a livello di liquidità, perché non lo danno all'INPS ma lo danno al dipendente che chiede l'acquisto, quindi non c'è un aggravio in questo senso. Invece le aziende più piccole, qualora non riescano con mezzi propri a far fronte al peso finanziario di queste erogazioni, possono accedere a questo sistema di finanziamento, ma non è a costo zero, perché comunque intanto bisogna pensare che alla fine, quindi a giugno 2018, dovranno restituire tutte queste quote, quindi possiamo parlare poi di cifre anche che possono essere molto ingenti, quindi la banca anticipa, ma poi bisogna ricordarsi che alla fine va restituito tutto, o anche anticipatamente nel caso in cui quel dipendente dovesse cessare il rapporto di lavoro per le sue quote, quindi questo è da tenere in conto. Poi c'è un contributo che è stabilito nella misura dello 0,20% della retribuzione imponibile di questi lavoratori che chiedono l'acquisto, quindi anche qui c'è l'azienda ovviamente deve finanziarsi questo, e poi c'è tutta una parte anche c'è di carattere burocratico che non è da poco, perché l'azienda si deve rivolgere all'istituto convenzionato, farsi rilasciare una certificazione dall'INPS che appunto attesta che quell'azienda appartiene a quella categoria che può accedere al sistema di finanziamento, la banca può chiedere eventualmente altre documentazioni, ci saranno delle spese notarili. Tutto questo per arrivare a dire che vedo ben pochi soldi che saranno distribuiti ad aprile, che entreranno in tasca dei lavoratori italiani, rota porta. Ma nel caso delle aziende che accedono al finanziamento, il lavoratore aspetta anche di più, perché la decorrenza del pagamento è dal terzo mese successivo. Quindi prima dell'estate, anche se tutto dovesse andare liscio, non vedranno nulla. Luglio o agosto, a seconda di, come dicevamo all'inizio, anche per i lavoratori di aziende più grandi, ma c'è questo mese su cui abbiamo ancora incertezza, ma se è l'ipotesi più positiva per il lavoratore, comunque non prima di luglio, ecco, per queste categorie di lavoratori, di aziende che accederanno al sistema di finanziamento, ma anche le altre hanno adempimenti non da poco, perché comunque devono verificare le adesioni, vedere le condizioni del lavoratore, se l'azienda incassa, sospende, incassa l'integrazione straordinaria, sospende l'erogazione della QIR. Infatti, guardi, prima delle domande degli ascoltatori, esistono delle cause che ho visto essere definite ostative all'accettazione della domanda del lavoratore, cioè quando il datore di lavoro può dire no, io non posso accontentarti? Ma già il lavoratore a priori, se ha dato il suo TFR in garanzia per un finanziamento, quindi in caso ad esempio di cessione del quinto, non può richiedere la QIR. Se invece l'azienda si trova in fase di procedure concorsuali, ha fatto un accordo di ristrutturazione del debito, o si trova in procedure di cassa integrazione salariale straordinaria o in deroga successiva alla straordinaria, in questo caso qui per le unità produttive interessate dalla cassa l'erogazione è sospesa per poi riprendere alla fine del periodo di cassa integrazione, quindi queste sono cause bloccanti. Certo, vedo tra l'altro qualche ascoltatore che chiede il contrario, può il datore di lavoro obbligare il lavoratore a metterlo in busta paga? Penso proprio di no, ma ci arriviamo adesso. Con chi preferisci partire? Allora, andrei da Giovanna, darei la precedenza a Giovanna, ci chiama dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo per avere un'informazione che però non riguarda il TFR in busta paga, posso lo stesso chiedere? Proviamo Giovanna, vediamo quanto si distanzia dall'argomento di stamattina. Ci dica. La mia ditta ha chiuso e tramite il sindacato è stata fatta domanda per intervento al fondo di garanzia dell'INPS. Sì. Al 22/10/2013 mi vedo arrivare una domanda dell'INPS che mi dice che con la presente è rigetto dalla stessa per intervenuti termini di prescrizione. Mm-mm. È possibile che anche l'INPS va in prescrizione per queste cose? Giovanna, grazie. Allora vediamo intanto se Rotta Porta può all'impronta rispondere o nel caso contrario se abbiamo bisogno di documentazione aggiuntiva, di una descrizione più precisa di questo caso, ci facciamo scrivere. Rotta Porta oppure possiamo dare un'informazione? Bisogna capire le tempistiche, perché se non abbiamo contezza delle tempistiche esatte non è possibile. Però anche una domanda inoltrata all'INPS dopo un po' può cadere in prescrizione, adesso a prescindere da questo caso specifico. Beh, in termini generali. Sì, può cadere in prescrizione. Certo. Bisogna vedere quando è stata fatta la domanda di accesso al fondo di garanzia, bisogna capire un attimo i tempi. Chiaro. Gianpietro Mirko? No, è caduto. Eccolo. Gianpietro è caduto, ma Mirko è pronto. Mirko buongiorno. Buongiorno. Vede buongiorno. Che lei è una garanzia. Vada, Mirko. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie, ci dica. Allora, niente, forse la mia domanda è anche magari banale, non lo so. Quando si tratta di lavoro, dei nostri soldi, delle nostre buste paga, Mirko, non c'è nulla di banale. State tranquilli, quindi anche le domande più semplici, fatecele, perché orientarsi in questi settori è veramente sempre difficilissimo per tutti. Ci dica tutto. Benissimo, io a suo tempo ho lasciato il malloppo, all'azienda, in azienda, non ho destinato a nessun fondo, eccetera. Sì. Adesso questo diciamo rateizzazione così parte da quando si fa richiesta in poi, quindi è rateo mensile, diciamo, oppure viene anche liquidato il gruzzoletto che nel frattempo è ancora in giacenza in azienda? Allora, Mirko, grazie della domanda. Alessandro Rotaporta, viene praticamente liquidata la quota maturanda mese per mese, se non ho capito male. Sì, è corretto, diciamo quello accantonato fino a quel momento lì rimane in azienda, o chi è invece destinato e verrà liquidato nel momento in cui si concluderà il rapporto di lavoro regolarmente. Esatto. Sì, è corretto. Quindi Mirko, nessun timore, non le viene praticamente liquidato tutto quello che è già accantonato presso l'azienda e che sarà destinato a fare proprio da liquidazione quando, speriamo il più tardi possibile, quando lei andrà in pensione, si concluderà il rapporto di lavoro. Allora, credo che stiamo andando verso la chiusura di questa prima parte di Cuore e Denari dedicata alla queer e quindi al TFR in busta paga. Rotaporta, che cosa dobbiamo dire ancora come ultima raccomandazione finale che non abbiamo detto fino a questo momento e quali aspetti dobbiamo tenere in considerazione come lavoratori qualora volessimo esercitare questa opzione di trasformare in liquidità sonante mese su mese appunto il nostro TFR? Ma diamo una notizia positiva, visto che abbiamo caricato un po' troppo di ansia, no? Esatto, chiudiamo positivamente l'intervento. Su un punto possiamo tranquillizzare i lavoratori, cioè chi sta usufruendo del bonus Renzi degli 80 euro che è stato confermato anche per il 2015, la quota della queer che va corrisposta in busta paga non incide, quindi non va a finire nel computo reddituale ai fini dell'ottenimento del bonus degli 80 euro. Quindi se vogliamo guardare gli 80 euro non si perdono. Non si perdono. Benissimo, grazie ad Alessandro Rotaporta per essere stato con noi, ma ho ancora 30 secondi di tempo. Che dici, una domandina tra gli SMS la vado a pescare? Volentieri, se c'è qualche cosa perché abbiamo risposto e ci tenevo a questo degli 80 euro che è una... Lo chiede sia Paolo e anche un altro ascoltatore che non si firma. E poi appunto Pippo Darò chiede: con moglie e due figli a carico conviene fare questa richiesta? Quali elementi dobbiamo considerare? Il reddito lordo complessivo, Rotaporta? Ma nel caso dell'ascoltatore, quell'esempio a cui accennavo prima, bisognerebbe calcolare e vedere se lui ha delle detrazioni che superano l'imposta. In quel caso potrebbe essere conveniente addirittura la queer rispetto alla generalità degli altri casi nei confronti della tassazione normale, quindi della tassazione separata. Allora, intanto, non appena l'INPS diffonderà tutte le disposizioni che deve, quando avremo ancora ulteriore chiarezza su tutto questo provvedimento, tutta questa iniziativa, ci ritorneremo magari fra qualche settimana. Intanto grazie ad Alessandro Rotaporta e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata, a presto. Adesso direi di metterci adesso in viaggio. Sì, andiamo in viaggio, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. 800 24 00 24 iniziate a prenotare i vostri interventi. Parliamo tra poco di salute del cavo orale. Cuore e denari. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca e alla stazione successiva molta più. La salute della bocca è la spia della salute dell'intero organismo e noi oggi vogliamo proprio concentrarci sul cavo orale. Quindi delimitiamo subito il nostro raggio d'azione. Ci occupiamo della lingua, delle gengive, della superficie interna, delle guance, delle labbra, della parte inferiore della bocca, sotto la lingua, si chiama pavimento orale. Per controllarlo dobbiamo aprire la bocca e spingere la lingua verso l'alto, della superficie ossea della bocca, il palato duro, e di quella zona che sta dietro i denti del giudizio. Se ce li avete ancora è facile individuarla, se no in fondo, insomma tutto è chiaro. Bene, allora voglio subito presentarvi il nostro ospite, il professor Domenico Cuda, Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Direttore dell'unità di otorino laringoiatria all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza e anche presidente di dell'associazione otorino laringologi ospedalieri, che ha organizzato quest'anno, questa per la prima volta, e cade oggi la giornata, prima giornata della prevenzione dedicata alla diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. Professore, negli ambulatori dei reparti di otorinolaringoiatria degli ospedali delle principali città, gli specialisti hanno messo a disposizione oggi la propria competenza per offrire uno screening gratuito ad accesso libero. Hanno aderito ben 180 strutture su tutto il territorio nazionale. Noi ne abbiamo dato notizie anche ieri in diretta sulla pagina di Cuore Denari. Ci auguriamo naturalmente che i nostri ascoltatori ne abbiano approfittato. Nel caso c'è ancora tempo per farsi fare un controllino, visto che alcune strutture aprono alla mattina, altre invece continuano la loro attività anche al pomeriggio. Che polso ha della situazione? Lei che ha il polso della situazione, che cosa sta succedendo? In una città piccola come Piacenza, ecco, devo dire che abbiamo avuto finora 150 persone che si sono presentate nei nostri ambulatori, quindi ci aspettavamo un numero sicuramente inferiore. E da telefonate ricevute da colleghi sparsi per l'Italia direi che il trend è simile, quindi c'è tantissima gente che si sta recando presso i reparti delle strutture che aderiscono per eseguire uno screening. Questo è un indicatore di successo molto buono, mi fa molto piacere. È soddisfatto come presidente. C'è ancora tempo perché siamo ancora insomma nella seconda parte della mattinata, per cui c'è ancora tempo, e poi qualche struttura aderisce anche nel pomeriggio. Ecco, per trovare, pensiamo ai ritardatari oppure alle persone che sentendo la puntata di oggi magari sì, hanno desiderio, esatto, di approfittare, di fare un controllo, diamo le indicazioni per individuare il reparto vicino a casa, professore? Ecco, si può accedere al sito giornatapreventioneaoi.it, ecco, e lì c'è l'elenco di tutti i reparti che aderiscono nelle varie città italiane all'iniziativa. In fondo alla pagina c'è proprio catalogato per regione, per provincia, l'elenco delle strutture con relativi orari e ubicazione degli ambulatori. 800 24 00 24 invece questo è il nostro numero verde a vostra disposizione per intervenire in diretta, per fare le vostre domande al professor Cuda, che oggi ci impresterà il suo occhio clinico per aiutarci a ispezionare la nostra bocca. Perché se è vero, come ripetiamo spesso, che prevenire è meglio che curare, per fare prevenzione bisogna essere informati e sensibilizzati. Il primo messaggio che vogliamo dare oggi è di controllare con attenzione le mucose del cavo orale, perché lesioni, tumefazioni, macchie, macchioline, ferite che non si rimarginano sono da considerare con attenzione. Professor Cuda, partiamo da qui. Sì, allora intanto bisogna fare una grande distinzione fra che il soggetto a rischio e il soggetto non a rischio. Il soggetto a rischio chi è? È una persona che ha più di 50 anni, è una persona che fuma, una persona che beve, assume alcolici, spesso se fa entrambe le cose il rischio è ancora di più aumentato, quindi fumo e alcol insieme. Sì. È una persona che ha dei traumatismi sulle mucose del cavo orale, per esempio qualcuno che ha l'abitudine di mordicchiarsi le guance, oppure qualcuno che ha, non so, un dente scheggiato gestito male, o un apparecchio ortodontico confezionato male che traumatizza la mucosa. È una persona che mangia poca frutta e verdura. Ecco, questo delinea, è un ultimo elemento magari da che è emergente, ma magari su cui poi ci soffermiamo dopo, che l'infezione da virus del papilloma, che è un problema emergente. Ecco, soggetti che abbiano queste caratteristiche, a maggior ragione non devono sottovalutare alcune lesioni che si possono trovare nel cavo orale. È chiaro però che un occhio generale al problema delle lesioni del lavorale devono averlo tutte le persone, indipendentemente dai fattori di rischio. Quali sono queste lesioni? Bene, lo ha già detto lei molto bene, Nicoletta. Allora, le macchie, delle anomalie di colore sono fra i segni iniziali più importanti. Quindi, se abbiamo in bocca, sulle guance, sulla lingua, sul pavimento orale, delle piccole chiazze biancastre o rossastre, o insieme, cioè con delle aree bianche, delle aree rossastre, beh, allora è bene far vedere questo tipo di lesione, soprattutto se è una lesione che è data da tanto tempo, cioè da più di un mese. Dolori insistenti, costanti in una certa area della bocca, non il dolore diffuso che può esserci talora, la cosiddetta sindrome della bocca orente, che è più una forma nevralgica che non una vera lesione preoccupante, ma un dolore localizzato in un certo punto che non passa in 3 settimane, 4 settimane, beh, deve suscitare preoccupazione. Dei sanguinamenti strani, insistenti, di modesta entità, ecco, certamente non quelli di quando ci si spazzola i denti e magari si ha un po' di parodontopatia, ma un sanguinamento che proviene da un certo distretto, oppure delle ulcerazioni, cioè delle piccole scavazioni della mucosa, specie se si associano poi ad un indurimento dei tessuti circostanti. Ecco. Queste sono le lesioni, sì, che vanno fatte controllare. 800 24 00 24, ispezioneremo poi il nostro cavorale con l'aiuto del professor Cuda, che ci aiuterà soprattutto a capire, a fare una distinzione tra la condizione di normalità e una condizione di allerta, non dico ancora allarme. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori, Deborah? Sì, sì, che si sono già candidati in tantissimi. Allora cominciamo, credo, con Mara dalla provincia di Pavia, che è stata la prima a prenotarsi sull'argomento di cuore di stamattina. Mara, benvenuta. Grazie, grazie a voi di tutto e buongiorno. Buongiorno. Il mio problema sono le afte sul cavo orale da anni mi perseguitano per periodi più o meno lunghi, ultimamente praticamente ci sono quasi sempre, sia il mio medico curante che il dentista mi ha definite afte, mi hanno detto che non c'è niente da fare. Se non che appunto io chiedo a voi se avete qualche aiuto, qualche suggerimento in più da darmi. Allora, professor Cuda, sulle afte noi abbiamo fatto numerose puntate ed è, con Deborah ne parlavamo, proprio quando le afte diventano numerose e ricorrenti, spesso possono indirizzare il medico a controllare un'eventuale intolleranza al glutine, potrebbero essere uno dei segnali di celiachia. Professor Cuda. Certo, diciamo che l'aftosi ricorrente, estesa, eccetera, può deporre per un disordine dell'apparato immunitario e quindi tutte le patologie che si configurano con un disordine dell'apparato immunitario possono essere responsabili di afte, quindi la celiachia, se si associano per esempio delle afte anche a livello genitale, rientriamo nel campo delle patologie reumatiche, la sindrome di Behçet per esempio, ma ci sono tantissime forme di patologia dell'apparato immunitario in cui l'afta del cavo orale può essere una spia. Esatto. Scusi, professor Cuda, vogliamo descrivere l'afta? Perché io temo che si dia lo stesso nome a delle situazioni diverse. Simili. Cioè, l'afta è quella piccola lesione bianca, o è sempre bianca, o è di un altro colore, bianca. Ha una localizzazione precisa? Perché noi, quando abbiamo qualcosa che ci brucia in bocca, o che appoggiando la lingua, aspirando con la lingua avvertiamo dolore, diciamo ho un'afta e insomma cerchiamo di farla passare il più breve tempo possibile, però così la definiamo. In realtà che cos'è esattamente l'afta? Ci faccia capire bene. Sì, beh, l'afta in è 30 una piccola, secondi. È una piccola ulcerazione della mucosa, praticamente si perde lo strato superficiale della mucosa per cui vengono esposte le fibre dolorifiche e quindi fanno male. Le afte hanno un aspetto con il centro, una piccola escavazione con il centro, di solito biancastro perché la fibrina nel cavo orale può poi prende quel colore lì, però può anche essere giallastra, bruna. Il bordo è classicamente rosso ed è soffice alla palpazione, cioè difficilmente è dura. Ecco, può essere di pochissimi millimetri, ma può essere anche un po' più estesa, anche fino a un centimetro e mezzo. Ci fermiamo qui, ci fermiamo qua, professore, riprendiamo dopo il GR con delle indicazioni per i nostri ascoltatori. A tra poco. Cuore e denari. Perché i miei scintillano come le stelle in cielo, non vedono mai tarda. E siamo tornati. Oggi non parliamo solo di denti, anzi non parliamo di denti, parliamo di cavo orale, perché proprio oggi si celebra la prima giornata nazionale dedicata alla diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. In linea con noi abbiamo il professor Domenico Cuda. Buongiorno, è ancora in linea con noi. Professore, prima del GR abbiamo parlato di tutte quelle protuberanze, lesioni, ferite che si sviluppano nel cavo orale, che abbiamo ben definito, distinguendo tra quelle che possono metterci in allerta e quelle che invece sono da considerare nella normalità. Quindi è normale che si possano avere delle piccole lesioni in bocca, ma devono rimarginarsi, chiudersi in pochi giorni. Tempo. Ecco, idealmente pensiamo a quando facciamo un'estrazione dentaria, ecco, immaginiamo il terremoto che succede a livello locale quando viene apportato un dente, eppure 10 giorni dopo, 15 giorni dopo è tutto a posto, ecco, la bocca ha delle capacità straordinarie di guarire. Quando questo non succede entro 3 settimane, 4 settimane, beh, dobbiamo preoccuparci. Professore, al cavo orale appartengono anche le labbra, perché le labbra sappiamo che sono delicatissime, a volte si screpolano. A proposito di traumatismi, ci sono persone che le labbra le massacrano perché le mordicchiano, tirano le pelline, eccetera. Ecco, quale attenzione dobbiamo avere per le labbra, oltre che ricordare di proteggerle adesso che iniziano le prime giornate di sole con degli stick, perché anche le labbra si scottano. Professore. Il tumore del labbro non è fra i più frequenti del cavo orale, però ha una sua rilevanza e il fattore di rischio principale è rappresentato proprio dall'esposizione ai raggi solari, quindi la strategia preventiva migliore è proprio quella di proteggersi con degli stick protettivi contro i raggi ultravioletti, quello che si fa peraltro di solito quando si è in montagna, quando si va in montagna a sciare, ma che spesso uno dimentica di fare proprio l'estate, quando invece in realtà ci si espone di più, quando c'è più bisogno. Gli sportivi, quelli che vivono molto all'aria aperta, i pescatori, le persone che vivono al mare sono particolarmente esposte. È più interessato curiosamente il labbro inferiore, infatti è rarissimo che si sviluppi un tumore sul labbro superiore, mentre invece il labbro inferiore è abbastanza comune. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, potete chiamare per avere consigli, per avere indicazioni. Parlavamo di afte, professor Cuda. Chi non le ha provate, e a leggere i messaggi che arrivano al 349-238-6666, gli ascoltatori di Radio 24 sono desiderosi di sapere come prevenirle, se si può fare prevenzione e soprattutto come affrontarle. Abbiamo in linea con noi Luca da Roma, buongiorno. Oh. Luca è caduto. Lo ripeschiamo professor subito. Cuda, prima che lei venga con noi davanti allo specchio, perché io vorrei proprio che lei ci aiutasse a ispezionare il cavo orale, quindi a osservare la nostra lingua. Sono tanti gli ascoltatori che ci scrivono: ho la lingua cartageografica, ho la lingua rossa, ho la lingua con una patina bianca, in modo che lei ci aiuterà a capire quali sono i segnali che dobbiamo prendere in considerazione e per quale motivo andare a farci fare un controllo. Intanto andiamo subito a Sabrina da Milano, buongiorno. Buongiorno Nicolette, buongiorno Deborah. Buongiorno. Fa piacere sentirvi, vi ascolto tutti i giorni e niente. Allora, volevo sapere questo: mio figlio ha 13 anni, ha la lingua proprio bianca con delle striature, nel senso una carta geografica, così è stata definita. Niente, un dottore mi ha detto che non c'è niente da fare, non c'è da preoccuparsi, un altro mi ha detto che potrebbe essere magari una fonte di allergia, qualcosa, qualche intolleranza alimentare, Beh, io non ho fatto nessun, non so se è il caso di approfondire o meno questa situazione. Grazie Sabrina. Professor Cuda, partiamo bene. Proprio dalla lingua. Sì, allora, la lingua è, come tante altre cose, una del nostro organismo, caratterizza l'individuo, quindi non, è impensabile che esistano due persone con la lingua uguale. Nella come le impronte digitali. Esattamente. Ciascuno ha la lingua che si merita. Ognuno ha la lingua che si merita. Nella stragrande maggioranza dei casi non si tratta di patologie, ma semplicemente di aspetti morfologici particolari, quindi non deve suscitare preoccupazione avere una lingua con dei solchi, per esempio, molto profondi, o la cosiddetta lingua carta geografica, che altro non è se non una parziale atrofia dei villi, che quindi caratterizzano delle aree all'interno della lingua di colorito più roseo, più lisce, che possono tra l'altro anche migrare, perché i villi possono ricrescere e magari atrofizzarsi in un'altra piccola area. Questo non deve indurre in preoccupazioni, così bene. Come non deve indurre in preoccupazioni l'avere la cosiddetta lingua nera, villosa, no? Quasi capelluta, perché sono patologie assolutamente benigne. C'è dato l'immagine, dottore. Sì, che certo che se uno tira fuori la lingua, la vede nera e villosa, ecco, un po' noi di spavento, non lo baciamo di certo. Non si può baciare, professor Cuda, lei che non dice? Non è un segno di lesione neoplastica, ecco, bisognerà interrompere il fumo, bisognerà fare dei trattamenti antimicotici se c'è una sovrapposizione micotica. Molto spesso invece sono proprio dei tratti costituzionali. Invece, se noi rileviamo sui margini della lingua in particolare, soprattutto da un lato solo, quindi non forme bilaterali, simmetriche, un indurimento, una escoriazione, un qualcosa che sanguina, che dà un dolore sordo e che non guarisce entro un mese, beh, allora il discorso qui cambia radicalmente. Ecco, la stessa cosa noi dobbiamo andare a ricercare sul pavimento della bocca, che per ordine di frequenza è il secondo sito in cui si possono sviluppare dei tumori. Il pavimento della bocca è un pochino difficile da vedere, bisogna tirare in la lingua verso il palato e magari aiutarsi anche con il dito a spingere la lingua prima da una parte e poi dall'altra, in maniera da visualizzare molto bene ciò che c'è su questo pavimento del cavo orale. E anche qui delle lesioni, come dicevamo prima, infiltranti, cioè indurative, o delle piccole ulcerazioni costanti, sempre in un punto, bene, anche lì bisogna mettersi un pochino in allerta. Un ascoltatore ci scrive: ho due bolle sulla lingua, l'hai letto Deborah? Sì, l'ho letto. Ogni tanto si gonfiano e danno più fastidio, cioè compaiono e scompaiono. Professor Cuda. Beh sì, ci sono delle malattie come il pemfigo, che può dare delle lesioni bollose, possono essere delle forme sempre su base immunitaria, o altre volte ci possono essere delle lesioni erpetiche, vescicolari, che poi scoppiano e si perde la bolla, e salvo poi riapparire nel corso delle recidive. Quindi senz'altro la patologia stomatologica va inquadrata. Certo. In campo odontoiatrico, in particolare esistono degli odontoiatri che sono particolarmente specializzati proprio nella patologia stomatologica, però non sono lesioni sospette per tumore del cavo orale. Professor Cuda, abbiamo lasciato in sospeso le nostre afte, che si localizzano di preferenza sulle mucose delle guance e delle labbra. Ci sono delle indicazioni per evitarle, per fare prevenzione, soprattutto quando si presentano le afte, che lei ha ben descritto, così che da non creare, no, difficoltà a individuarle con precisione. Quali sono i trattamenti più efficaci? È utile utilizzare dei colluttori, delle toccature, esatto, locali, oppure invece meglio evitare? Che cosa bisogna fare? Allora, quando sono delle piccole afte dell'ordine di pochi millimetri, in genere bisogna ricorrere a trattamenti sintomatici. Sono purtroppo poco efficaci, perché il trattamento migliore è proprio la cicatrizzazione spontanea, cioè le afte entro una settimana, due settimane guariscono. Quindi il massimo dei sintomi si ha nei primi giorni, quando c'è la sensazione dolorosa più importante. Quindi bisognerà ricorrere a tutti quegli stratagemmi, compresi i rimedi delle nonne. Secondo lei ne ha uno? Per esempio quello della bustina da tè bagnata, quello può essere abbastanza efficace, oppure gli sciacqui con acqua e bicarbonato, sono tutti piccoli rimedi che danno sollievo, però è chiaro che le toccature con le soluzioni cortisoniche hanno un'efficacia indubbiamente maggiore, così come se invece l'afta è molto estesa, allora lì rischia di essere invalidante e probabilmente si tratterà di attivare in questi casi anche una terapia con cortisone per via sistemica, però chiaramente questo va fatto assolutamente sotto prescrizione medica. Dopo aver valutato il quadro locale. Ricordiamo che le afte raramente sono simmetriche nel cavo orale, ecco, quando invece vediamo una particolare simmetria delle manifestazioni da un lato dall'altro della bocca, per esempio nelle guance o nella lingua, allora forse più che afte bisogna pensare ad altre forme, ad altre patologie particolari come il pemfigoide, il pemfigo, che sono delle lesioni infiammatorie, anche queste però fortunatamente hanno poco a che vedere poi con le evoluzioni tumorali vere e proprie. Professor Cuda, lei ci ha detto che i traumatismi possono rappresentare un fattore di rischio, per questo abbiamo invitato gli ascoltatori che hanno magari un dente che è un po' scheggiato, oppure i portatori di protesi, di recarsi dal proprio dentista per avere un consiglio, soprattutto per riparare queste eventuali parti dei denti che possono provocare lesioni. Ci sono persone che quasi come un tic si mordicchiano continuamente la parete interna delle guance, oppure lo fanno involontariamente masticando qualche cosa. Si creano delle lesioni che alla fine si ripetono e tante volte ci sono delle persone che notano proprio delle protuberanze all'interno della guancia, quasi come se fossero dei piccoli calletti. Che cosa, quali sono le attenzioni da avere in questi casi? Sono i cosiddetti fibromi da irritazione, cioè il trauma ripetuto fa sì che poi vi sia questa proliferazione riparativa della mucosa e si formano questi fibromini, queste piccole escrescenze. È chiaro che il fibromino di per sé non significa evoluzione tumorale, però se esistono anche altri fattori di rischio, e purtroppo spesso vanno in compagnia i fattori di rischio in questi soggetti, cioè uno si mordicchia, c'è il dente scheggiato, fuma, beve alcolici, e allora in questo caso il traumatismo assume un valore, diventa un cofattore verso l'evoluzione tumorale. Quali sono i consigli? Certamente quello di cercare di correggere le abitudini viziate, e se vi sono delle anomalie nel dente o nell'apparecchio ortodontico, per esempio, cercare di correggere in maniera da ridurre il traumatismo che a volte proprio è quasi obbligato, perché per esempio molti soggetti hanno l'abitudine di digrignare i denti di notte e non lo fanno certamente volontariamente, però anche in questo caso per esempio l'allestimento di un bite può aiutare a prevenire, a ridurre il traumatismo. Professor Cuda, c'è una domanda di Anna Maria da Roma per lei, a cui si è aggiunto proprio in questo istante anche Luca da Modena, per cui li sentiremo. E intanto, professor Cuda, se lei risponde ai nostri ascoltatori, noi le diamo il suggerimento che ci ha dato per le afte, da aggiungere alla bustina di tè, agli sciacqui con il bicarbonato, la tintura di propoli. Non so se lei la conosceva, ma questo è il consiglio di Samuel da Cuneo, che ringraziamo, perché dice che per le afte eccezionale la tintura di propoli, brucia ma risolve in un lampo. Quindi la passiamo anche al professor Cuda. Andiamo da Anna Maria. Anna Maria, sì, benvenuta nella capitale. Buongiorno, ringrazio fin da ora per la risposta che mi darete. Io volevo dire al professore, volevo chiedere due cose. Una, sul palato di tanto in tanto da 5-6 anni mi compaiono come delle piccole bollicine tipo scottature così, che si infiammano e mi danno un po' fastidio. Lo credo. Faccio degli sciacqui eccetera, poi spariscono, però vengono spesso, soprattutto se io sono un po' stressata eccetera, ho notato. e poi sulle labbra ho quasi fisse delle macchioline, direi delle bollicine viola scuro, che di solito si notano sulle labbra degli anziani, che sono brutte da vedere, anche se metto il rossetto eccetera, sono proprio brutte. Ecco, io volevo sapere se è possibile queste due cose, come si possono come risolverle, insomma. Grazie a lei, Anna Maria. Professor Cuda, partiamo dalle bollicine sul palato. Anna Maria faceva una relazione forse corretta: quando sono stressata, periodi di fatica. Sì. Ma è verosimile che siano proprio delle aste, da come le ha descritte, perché le ha descritte come bollicine, però senza mai rilevare la presenza della bolla vera e propria. Ha piuttosto parlato di piccole lesioncine da disepitelizzazione che ricordano proprio le afte. Certo. Quindi verosimilmente si tratta proprio di afte, e quindi rientriamo nelle situazioni di cui abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda il discorso delle piccole macchie nelle labbra, le labbra sono praticamente una zona di transizione tra la pelle e la mucosa del cavorale, quindi diciamo risentono di tutti quei fenomeni di accumulo di sostanze come la lipofuscina o di piccole formazioni pigmentate che sono tipiche della pelle, soprattutto della pelle con il passare degli anni. Bisognerà vedere se è opportuno o se vale la pena cercare di asportarle da un punto di vista estetico, tenendo però conto che qualunque trattamento chirurgico si faccia sulle labbra, si viene a compromettere un minimo anche la sensibilità, e le labbra forse hanno un bisogno estremo della sensibilità per tutta una serie di ragioni anche facilmente comprensibili. Quindi io non sono dell'avviso di eseguire molte manipolazioni o molta chirurgia per forme minori sulle labbra, a meno che non vi sia una ragione robusta per dover asportare una lesione. Professore, tra i fattori di rischio dei tumori del cavorale abbiamo, oltre al fumo, l'alcol, la cattiva igiene, la dieta povera di frutta e verdura, inserito anche le infezioni da papillomavirus. Certo, si tratta di un argomento sicuramente emergente, perché intanto il contagio avviene per trasmissione sessuale, quindi parliamo di sesso orale, con un soggetto ovviamente che sia portatore del virus. Il contagio non significa necessariamente evoluzione in senso tumorale, e la sede più colpita peraltro non è neanche il cavorale, ma la faringe, cioè tutto ciò che c'è dal palato molle indietro in giù. Ecco, però la quota, diciamo, di tumori causati dal papillomavirus nell'ambito dei tumori del cavorale è in crescita graduale, costante. Se si vanno a esaminare le statistiche di 4 anni fa e quelle più recenti, la percentuale relativa dei casi causati da papillomavirus è in incremento anche sul cavorale. Quindi è un problema emergente, è un problema di cui forse vedremo il picco di manifestazioni tra qualche anno. Il messaggio da dare è quindi di porre molta attenzione su questo, di avere un grado di allerta elevato, di migliorare i piani vaccinali in età adolescenziale naturalmente, e di utilizzare tutte le precauzioni possibili per questo aspetto molto particolare, per questo fattore di rischio che rischia di essere davvero di caratterizzare un'epidemia se non lo affrontiamo molto bene. Peraltro va detto questo, diciamo come contrappeso, che le forme di tumori causate da papillomavirus hanno una prognosi fortunatamente migliore rispetto a quelle invece indotte dal fumo o dall'alcol. Anzi, possono essere gestite con associazioni chemio-radioterapiche, evitando interventi molto demolitivi. Ovviamente parliamo dei casi più avanzati. Professor Cuda, noi la ringraziamo per essere stato con noi, rimandiamo i nostri ascoltatori sul sito, magari hanno ancora tempo per andare a sottoporsi dei controlli. La ringraziamo, le auguriamo una buona giornata, una buona prima giornata di prevenzione. Grazie professor Cuda. Allora noi andiamo, è tempo anche di andarci a godere il nostro fine settimana, ma ritorneremo allora no ritornerai qua puntuale lunedì. Io ho un impegno, ma ti penserò. Certo. E ritorno martedì a farti compagnia. Va bene. Allora, noi ti aspettiamo a martedì. Intanto, appuntamento a lunedì. Buon weekend. Salutiamo anche Roberta Frisani, in regia alla parte tecnica. Un'altra donna, Isotta Scenna, ma anche il nostro uomo Marco Lombardo, che naturalmente ci supporta e sopporta, come dico io sempre. Grazie a tutti. Buon weekend. Cuore e denari.